saw. Oh no, vita che respiro. C'è una carta magica, un sogno folle che esplode dentro di me, luce che illumina la mia strada senza uscita.